Dicesti se la luna, ed ecco che la luna spunta. Dicesti se le stelle, ed ecco che ne è pieno il firmamento. Io tremo ad aspettare il noto segno dell'appuntamento. Tu premi nel pensare che l'ora di cadermi in braccio è giunta. Mezzanotte c'è chi dorme in compagnia e chi fischiando va per la deserta via. Ma se stanotte mi manchi tu, che bel timore, non vieni giù, se il nostro amore non è mai fu, perché per te non conto più. A mezzanotte tu non mi fai compagnia ed io fischiando va per la deserta via. Dicesti amore caro, ti lascio il cancelletto aperto, ma per quel brutto cane ti prego di far piano e stare accorto. Ma quello sta abbaiando che già mi sento sotterrato e morto. Se questo non avviene, all'ospedale va, ne sono certo. A mezzanotte c'è chi dorme in compagnia, chi fischiando va per la deserta via. Ma se stanotte mi manchi tu, che bel timore, non vieni giù, se il nostro amore non è mai fu, perché per te non conto più. A mezzanotte tu non mi fai compagnia ed io fischiando va per la deserta via.